Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 18. Certo che devi usare la tua testa, il tuo intelletto terreno, ma prova ad andare oltre. Solo così puoi sviluppare qualcosa in più, una nuova dimensione. E noterai che la vita ha un senso. Ogni giorno devi svegliarti e provare piacere. Evita la routine quotidiana. Fai ciò che la tua sensazione ti dice di fare. Un giorno dormi un po' di più e il giorno dopo sei sveglio, alzati. Lascia andare le regole dogmatiche. Giocaci. Sappi, il sentimento dato a te non è tuo. Questa sensazione di te, tutti i sentimenti che hai sentito, sono sussurrati nelle tue orecchie dall'alto. Non puoi rimanere nei tuoi sentimenti. Devi attraversare per venire allo spirituale. Pensiamo che questa sensazione sia nostra, che sei te. Ma è la forza che ti viene donata dall'alto. Ogni volta che sorge una sensazione in te, risolvila lentamente. E leggendo te, verrai all'esperienza. Quando inizi a lavorare in questo modo, riporta tutto al sorgente. Ogni pensiero sarà riportato alla sorgente. E tu sai che nulla scompare nello spirituale. Tutto il lavoro che fai, qualunque cosa tu saperi, è tutto profitto. Raggiungi più spazio interiore. Non sparirà una cosa. Sappi che lavorando in questo modo, le tue forze terrene non diminuiranno. Contrariamente, guadagnerai molto. Tes 3. Tutto è così confuso. Stiamo parlando di qualcosa che era già lì, prima che i mondi fossero creati. E quando è in questo modo, qual è la realtà di cui stiamo parlando? Cosa riempie l'alta luce? Devi sapere. Riguarda i mondi, riguarda i mondi e tutte le anime già esistenti e le anime che stanno aspettando di apparire in tutta la loro varietà, fino al momento in cui arrivano là, alla fine anche la correzione. tutte sono racchiuse nell'infinità del Creatore. Esistono nella loro pienezza e totalità. Non possiamo separarli dalla luce. Conosciamo solo i loro aspetti, le loro qualità. Possiamo solo distinguere due condizioni in questa realtà comune. Primo, la forma in cui esistono per sempre, in tutta la loro interezza e pienezza. Secondo, il modo in cui sono riconosciuti, come vengono giù e si fanno nuovi dopo la prima limitazione, nei mondi con i nomi Adam, Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah e Assia. Prima c'era la luce singolare che riempiva l'intera realtà. Quale realtà? Luce. Ma questo è tutto prima della creazione. Qual è la realtà menzionata qui? Sembra un enigma terrestre. Questo perché non hai ancora un sentimento per lo spirituale. Guardalo in questo modo. La luce riempie tutto. Non ci sono differenze tra altezza e basso. Nessuna differenza tra le creature. Di quale realtà possiamo parlare? Qual è la realtà di cui stiamo parlando? C'era solo luce, anche prima della creazione. E in questa luce vediamo le radici, l'essenza di tutto ciò che verrà creato, dall'inizio alla fine dei tempi. Tempi. Tutto è in questa luce. La luce senza fine non significa fine. Può esserci qualcosa che sta finendo? È possibile? È difficile da capire. So che questo fa salire molto la tua immaginazione. Sapere tutto era già lì, in essenza. Puoi confrontarlo con il seme di un uomo. Tutte le qualità del neonato sono già lì. O il seme di una pianta. Un animale deve solo essere seminato e quindi possono crescere tutti i tipi di piante. Tutte le generazioni provengono da questo unico seme. È lo stesso con l'intera realtà. Qualsiasi cosa apparirà, tutto il piacere, tutta la sofferenza, tutta la gioia, era già lì nella luce della creazione. Questo è il nostro primo inizio della luce. Più tardi vedremo lentamente tutte le grossolanità e le differenziazioni. Ora è molto sottile. Lentamente verremo al materiale terreno, all'esistenza dell'uomo. E quando siamo arrivati in questa stazione, quando stiamo arrivati in questa stazione, sperimenteremo gli strati più profondi del nostro interiore. Ma per ora è troppo alto. Ecco perché è così strano. Lo è se è ancora fuori di me. Più tardi, passo dopo passo, sperimenterai sempre di più. Tutte queste 2000 pagine parlano di me. 2000 pagine di Tess parlano di me, di ogni anima che sta leggendo questo. Riguarda solo te. Questa storia parla della tua anima, è dentro di te. Tutti i cambiamenti sono dentro di te. Niente è fuori di te. E quando verrai all'esperienza, sentirai il mondo intero dentro di te. Sarai il padrone e nessun Dio o qualcosa in cui credi ti controllerà. Ora puoi avere la sensazione di un burattino su una corda. E infatti la persona esterna è come un burattino su una corda, un robot. Con fuori intendiamo al di fuori del lavoro spirituale. Quando leggi la parola fuori, sai, parliamo sempre della condizione spirituale. Con l'esterno intendiamo qualcuno che non ha ancora lavorato su se stesso. Obbedisce al Creatore e fa il lavoro che il Creatore vuole che faccia, ma non noi. Perché? Perché il Creatore non deve forzarci. Quando inizi a lavorare su te stesso, vedi l'unica creazione di forza dentro di te. Ciò che esiste in questo mondo sono due persone, due protagonisti, due punti di forza. Ma in un certo senso è una forza, perché tutti noi veniamo da questa unica forza. La nostra destinazione è da una radice. Puoi confrontarlo con un bambino. In ogni vita arriva un momento per essere indipendenti, anche se la connessione con i genitori sarà lì per sempre. Anche noi abbiamo una connessione eterna con il nostro creatore, il nostro genitore, il nostro padre. Con questa unica forza. Ma dobbiamo diventare indipendenti. Quindi dobbiamo prendere una certa distanza. Separarci. Questo è l'unico modo per diventare adulti. con adulto intendiamo dare. Quando inizi a dare, sei diventato una persona adulta, indipendente. E quando hai raggiunto questo livello, ti connetti con tuo padre. Padre, il padre con P maiuscolo. Solo ora, in modo molto consapevole, non come un bambino esigente, tu vedrai lui come un partner nell'opera chiamata creazione. Buon lavoro. Compiere il lavoro di limitazione con gioia. Quando non c'è gioia, la limitazione sarà un compito pesante. Ora la gioia è una parte molto importante del lavoro che fai. Quindi senti la gioia. Lezione 16. Nella precedente versione di Tess abbiamo usato molta terminologia ebraica. In un certo senso, la terminologia non è la parola giusta. L'ebraico è un codice, la lingua della Kabbalah. Lentamente lo saprai con il cuore. Non semplicemente imparandolo con la testa, ma attraverso il riconoscimento. E il riconoscimento ci sarà leggendo, sarà leggendo questo ancora e ancora. Ti abituerai a queste parole. E presto le riconoscerai. La cosa più importante è il tuo atteggiamento. L'apprendimento del materiale è secondario. Puoi trovarlo in te. La cosa più importante da sapere è che mentre stai leggendo, renditi piccolo, umile, ricevibile. E questa è la parte più difficile. Perché? Perché il tuo ego non ti lascia andare. È legato al tuo orgoglio. Non dire troppo presto. Ma sono umile e modesto. Manchiamo tutti di umiltà e modestia. Quali sono le idee di base della Kabbalah? Ci sono tre elementi nella creazione. Ciò che esiste nell'universo e ciò che sta accadendo possiamo riportarlo a tre elementi di base. Borè, l'unica forza creatrice, il creatore, Nivrà, la creazione, è qualcosa e in medio, Massach, lo schermo tra loro. Cominciamo con la parola Borè. Nel linguaggio cabalistico, Usiamo questa parola per il creatore. È molto importante usare le parole ebraiche. E la parola Borè è un ottimo esempio. Borè è un participio. Quindi dovrebbe essere meglio tradurre questa parola come in un processo. Creante. Significa mentre il processo di creazione. Nell'oggi. Sta avendo luogo perché non è un verbo e non si intende una persona, ma qui vediamo il processo di creazione, qualcosa che sta creando. Quindi, allora in poi userò questa parola al posto dell'unica forza creatrice. Oh, Dio. Userò vorrei. Questa parola ha la forza. E di fronte a Borè abbiamo la creazione. E la parola ebraica per la creazione è Nivrà. Qualcosa che è creata. Una parola passiva, creata. E anche Nivrà è un participio. Ma participio passato. Quindi in questa parola vediamo anche un processo. Ma un processo in passato. Quindi, quando parliamo della creazione o delle forze creatrici, vediamo Borè di fronte al Nivrà. Nella Kabbalah mettiamo elementi che sono qualitativamente opposti l'uno all'altro. Per esempio, puoi confrontare una mano solo con un'altra mano. Una mano può essere più grande e un'altra più piccola, ma rimane una mano. E non puoi confrontare una mano, per esempio, con i piedi. È lo stesso qui. Guardiamo sempre agli elementi che sono corrispondenti. Borè, creatore, verso Nivrà, creazione. Meglio non creazione, ma creato. Lui è attivo, è un creatore. E Nivrà è creato. Creato da creatore. Quando parliamo di luce, in un certo modo utilizziamo la parola Borè. Ogni cosa viene dal Boré. E la parola ebraica per la luce è or. Quindi useremo sempre più la parola or. Boré c'è anche nella parola Boré, creatore, c'è or. Ciò che viene dal Boré è or, luce. O in altre parole piacere. Tutto il piacere che riceviamo viene da sopra. È di fronte, or luce, abbiamo cli. E quando usiamo la parola cli ci riferiamo a chi riceve. Ma possiamo dire invece di cli desiderio. Il desiderio è il ricevitore. Il desiderio corretto è il ricevitore. Così è meglio. Che il desiderio non corretto non riceve. La parola ebraica per desiderio è ratzon. È questa parola la vediamo spesso anche in tes. Il desiderio è il ricevitore della luce, or. Desiderio significa mancanza. C'è mancanza per il riempimento. E il riempimento è or. E il desiderio è ratzon. Iniziamo con poche parole. Ma usandoli raggiungiamo il cuore della Kabbalah. In un certo senso il nostro lavoro sarà più veloce. Tutti i tipi di parole non confondono, sono molto efficaci a causa della terminologia proveniente della nostra lingua. Usando le parole del nostro linguaggio, c'è, o nostro linguaggio, in questo caso l'italiano, c'è il pericolo di ogni tipo di interpretazione arbitraria. Quando vedi la parola Boré, non devi più pensare a qualcuno che vedi, ad esempio, un profeta o qualsiasi cosa immagini con la parola creatore o Dio. Non pensare di dover buttare via queste immagini. Il significato è che si arriva più in profondità. Penetrare il reale significato di una parola per raggiungere livelli più profondi. È bello arrivare al vero significato della terminologia. I cabalisti usavano le parole del nostro linguaggio, del linguaggio terreno, perché in tutto dobbiamo vedere la somiglianza. Esso deve corrispondere. Il superiore con quello inferiore. I cabalisti hanno fatto uso delle parole del nostro linguaggio per rendere il mondo spirituale più comprensibile. Luce, or. È opposto a ora abbiamo desideri, cli, razon. Il plurale di cli è kilim. E il plurale di razon è razonot. Non confondersi. Non pensare, oh, ora devo imparare parole ebraiche. Imparerai, ma in un altro modo, e poi pensi, perché non utilizziamo l'apprendimento intellettuale? Quando due persone sono sedute l'una accanto all'altro, e uno è un professore, e l'altro è un falegname. Ovviamente il professore imparerà più velocemente la terminologia perché è un intellettuale. Con meno sforzo imparerà e farà uso delle parole ebraiche con la sua mente intellettuale. Ha sviluppato un sistema di pensiero e questo lo sta mettendo a posto al Boré. Lui si protegge dal Boré. Tra lui e il Boré c'è il suo modo di pensare. Il pensiero che ha sviluppato durante molti anni. E questo pensiero intellettuale sostituisce il suo Boré. Mentre il falegname, per lui è difficile ricordare queste parole. Non è istruito come il professore. Il suo linguaggio non sarà così profondo. E potrebbe essere difficile per lui imparare queste parole. Ma il lato positivo di questo è che sentirà e avrà il gusto per lo spirituale molto più facile. Il professore. Devi sapere che il Boré non fa alcuna differenza sociale, diciamo, tra le persone. Per lui tutte le persone sono uguali e tutti loro possono e saranno capaci di imparare lo spirituale. Non è meraviglioso? Per tutti sono i benvenuti, perciò tutti sono i benvenuti per venire ad imparare la Kabbalah. Non chiedo mai, qual è la tua educazione? Ma non è importante. Ciò di cui hai bisogno è il profondo desiderio per spirituale. Bisogna che tu devi essere consapevole del tuo obiettivo, considerando la creazione. Questo è importante e nient'altro. Quindi è possibile che uno comprende molto velocemente, e questa potrebbe essere la ragione per cui un'altra persona si sente come stupida. Ma devi sapere, chi è intellettuale e comprende le cose molto facilmente, non sarà migliore nello spirituale, perché lo spirituale non ha niente a che fare con la comprensione intellettuale, con la capacità della comprensione intellettuale. Capacità naturale dell'uomo. Lui può impararlo a memoria, può imparare perfettamente la lingua ed allo stesso tempo non provare nulla. Sii consapevoli di questo. Imparerai ripetendo e con la via del sentimento. Borè, creatore, Kilim. Borè è creatore. Kilim è Nivrà. Creazione. Or delizia. In questa figura vediamo il creatore, Borè. La creazione, il creato, Nivrà. E la gioia, Or. Questo è ciò che ci viene dato. Opposto alla delizia abbiamo la sofferenza. C'è sofferenza a causa della mancanza di piacere. La sofferenza è la mancanza di piacere. Un bambino piccolo può soffrire perché un altro bambino ha portato via il suo giocattolo. Questa è la sua sofferenza. Il terzo elemento è Masach. Letteralmente Masach significa schermo. Tra Borè e la Nivrà, tra tutti i tipi di varietà, ci devono essere i massach, secondo le istruzioni, le leggi dell'universo. Massach è schermo. Ma cosa significa? Sopra gli organi di consapevolezza di un essere umano, l'uomo deve fare, per mezzo dei suoi sforzi, una sorta di filtro. In un certo senso il massach ha qualcosa a che fare con la forza di volontà. L'uomo ha bisogno della sua forza di volontà per venire in conformità con le qualità del Borè, con lo spirituale, con la forza infinita. Come può uno arrivare a questo accordo? Solo con la via della forza di volontà. E questo dà a noi una nuova domanda. Come otteniamo la forza di volontà? Venendo sempre di più nell'unità, La vittoria sull'autostima. Ma per avere la vittoria sull'amore di se stessi, abbiamo bisogno di forza e il potere. E il risultato di questo potere è la vittoria. E questa forza è chiamata Masah. Prima noi vediamo uno schermo, il sistema di filtraggio, così ora possiamo attraverso questo sistema venire in contatto con il Boré. Con il nostro stadio superiore possiamo andare dal basso verso l'alto. Abbiamo già parlato di Ma, la nostra richiesta dal basso. E per mezzo di questo sistema di filtraggio, il Masah, dall'alto verrà in basso il Mad. Mad è l'abbondanza, è colui che ha suscitato il Mad. Riceverà questa abbondanza. La Mad. Masah è all'interno della creatura, della Nivra. Ma anche il Borea ha il Masah. Il plurale di Masah è Masahim. È una parola maschile. Borea è un sinonimo per luce, or, per l'Ein Sof, per l'amore eterno. E il desiderio razzon di Borè è che noi la creazione Nivra riceverà la sua luce, or. Perché il suo razzon uomo riceverebbe or. Lui ha fatto il cli e il cli è il razzon all'interno dell'uomo. Pertanto Borè ha reso grossolana la luce. Or, questa grossolanità della luce, or, tutti questi livelli di grossolanità sono anche chiamati Masahim, il plurale di Masah. Considerando la creazione, Nivra è Masahim, ma considerando Borè è Masah. I mondi sono Kilim, i Kilim formati dall'alto. Kilim è il grossolano della luce Ein Sof. La parola ebraica di mondo è Olam. E il plurale è Olamot. È una parola femminile. Ogni desiderio, ogni mondo, ogni passo è un grossolano della luce ed è chiamato mondo Olam. Possiamo dire un Kli che è in conformità con la luce Or è mondo Olam. E tra la luce e il Kli abbiamo i Masahim. E Masah è come un schermo, qualche genere di sistema di filtro. per dare a Cli l'opportunità di ricevere la luce or. E all'interno di ogni mondo Olam abbiamo Parzufim. Il significato delle parole Parzuf è volto. Parzufim è plurale e Parzuf è singolare. È lo stesso come nel nostro mondo. Possiamo vedere qualcuno in faccia, se può ricevere la luce o no. Quando la faccia di qualcuno è nell'oscurità, non riceve la luce e non è consapevole della luce. Ma quando una faccia splende, la luce è stata ricevuta e sperimentata. Dall'Ein Sof al nostro mondo, il mondo in cui viviamo la razza umana, tra l'Ein Sof e il nostro mondo ci sono cinque mondi spirituali. Almeno cinque mondi che sono importanti per noi. Ma molti più mondi sono nel mezzo. E un altro nome per questi mondi è stadi, o in ebraico madregot. Madregà, stadio, è singolare, è madregot, è plurale. Una parola femminile. Il soggetto del nostro studio sono questi cinque mondi, sebbene le ultimi quattro mondi sono il soggetto del nostro studio. Sono in un certo senso i nostri kilim, il grossolano della luce Ein Sof. Stiamo studiando questi mondi per renderci ricevibili, così ora possiamo ricevere la luce or. Abbiamo discusso di tre elementi. E non c'è nient'altro nell'universo. Ogni evento, ogni desiderio, tutte le persone che erano, sono e saranno analizzate attraverso questi tre elementi, tre protagonisti. Il creatore Boré, schermo Massach, creazione e il creato Nivrà. Ed è questo che impareremo. Come questi mondi Olamot stanno funzionando. E tra l'Olamot abbiamo i Kelimi o Parzufim. E la creazione ne avrà bisogno dei Kilim, altrimenti come potrebbero ricevere la luce? Qualunque cosa avvenga intorno o dentro di te, è tutto per venire all'esperienza. Non possiamo arrivare a capire perché le cose stanno accadendo, come esse accadono senza esperienza. Abbiamo bisogno della nostra reazione su certi eventi per arrivare a comprendere. Domani leggi il giornale e c'è un messaggio che ti tocca. Poi tu inizi a fare proiezioni, immagina come una reazione a ciò che tu hai appena letto. Sentiamo qualcosa riguardo un certo evento e sentiamo se l'evento è successo a noi. Ma cosa noi udiamo o leggiamo è sempre di seconda mano. Proviene da un'altra fonte. Siamo davvero capaci di sapere cosa è successo realmente? Non possiamo. Abbiamo solo la nostra reazione. E di cosa rimane? Non dovrebbe avere il nostro interesse, perché l'essenza noi non la sapremo mai. Ho solo la mia reazione dell'evento. Il nostro cli non sa nemmeno cos'è, perché è formato con la luce or. Prima c'era la luce, e insomma. E per mezzo della grossolanità, la luce aveva formato una cli, un cli. E lentamente, per via di tutta la grossolanità della luce, c'era il cli. E il cli poteva venire all'esistenza attraverso il massaggio. Massach è una forza contraria, perché c'è una certa resistenza e attraverso questa resistenza la luce Ein Sof può rendersi grossolana. Non commettere l'errore di pensare che la luce di per sé fosse grossolana. Conoscere Ein Sof, ovunque esso sia, brilla allo stesso modo, anche qui sulla terra. Noi siamo gli unici che non sono capaci di vederlo, di sperimentare la sorgente nel suo vero sé. Possiamo solo sperimentare lui per mezzo della sua grossolanità. Ma è scritto nello Zohar: occultamento è rivelatore. Per mezzo dell'occultamento arriviamo alla rivelazione. E per questo abbiamo bisogno dello schermo Massach. Non c'è altro modo di pervenire all'esperienza della luce. Tutte le creature qui sulla Terra, incluso il genere umano, hanno un minimo della sua luce, luce di mantenimento. È possibile confrontare questo con una candela e la luce del sole in una giornata soleggiata. La differenza è enorme. Ci sono persone che sperimentano la luce come una candela. E non importa quanto sei importante, quanto sei ricco. Uno può essere il più grande scienziato e se lui sperimenta poca luce è l'esperienza di una candela. E un'altra persona, non importa così o chi lui è, quando sente la luce il piacere nel suo sforzarsi, lui sperimenta la luce come la luce del sole. Sappi che ogni creatura vivente qui sulla terra ha il minimo di luce data a lui attraverso il Boré. L'uomo può ricevere ciò che gli viene dato per lui da ricevere, ma per venire alla ricezione della luce deve fare il massacro, il lavoro interno spirituale. Il lavoro spirituale interno. Solo con la via del Massah, con la costruzione del Massah, l'uomo può venire alla ricezione della luce. Non abbiamo bisogno di qualcos'altro, di qualcun altro, solo del Massah. E questo è il soggetto principale della Kabbalah. Analizziamo passo dopo passo. Sopra di noi abbiamo la luce. Siamo qui sotto. E tra noi e la luce abbiamo lo schermo Massah. Quel che viene dall'alto è la luce, ora. Ci sono molte varietà della luce, ma discuteremo questo più tardi. E qui sotto abbiamo il Kli, il desiderio per ricevere. È il mezzo. In mezzo abbiamo il Massah. Il Kli non può ricevere la luce o finché non c'è il Massah. In un certo modo puoi vedere il Massah come un intermedio, intermediario. Guarda la storia o qualunque religione. Vediamo sempre la figura di un intermediario. Queste persone avevano costruito loro stessi lo schermo, il Massah. È passato sul Kli alle persone, i desideri della gente. La passarono sulla luce perché l'uomo non è capace di fare questo da solo. Ma ora loro potrebbero riceverla attraverso l'intermediario. Il profeta aveva costruito in lui stesso il Massah. È molto importante per te sapere, un profeta ha ricevuto solo la luce o perché ha costruito il suo Massah. Si era reso ricevibile per la luce. Lui aveva fatto il suo proprio lavoro spirituale e basta. Lui costruisce l'intero sistema di Massachim dentro di sé. Tutta la controforza che aveva costruito in sé stesso, l'aveva dato al popolo, al Cli. E le persone, i Kelim, potevano ricevere, ma in un certo modo erano troppo ignoranti. E poiché Erano così ignoranti? Contarono su quell'unica persona, il profeta? O al giorno di oggi contano su un rabbino, un guru, o su qualcuno che ha carisma? Mussolini. Vedono in lui la luce. Ma tu che stai imparando la Kabbalah, vieni a imparare a costruire il tuo sistema indipendente di Masachim e non sei più dipendente da qualunque intermediario ci sia. Il pericolo di un intermediario è la creazione di spirito di gruppo. Ma siamo venuti in questo tempo e questo è il momento del finale. Ognuno di noi può costruire per mezzo delle sue proprie forze il suo proprio sistema di Masachim. Non abbiamo bisogno di un intermediario, nessun rabbino, nessun sacerdote, nessun profeta. O Dio, designato da coloro che erano ignoranti. Ogni persona indipendentemente è indipendente, non importa quanto intelligente sia, può arrivare alla ricezione della luce attraverso il suo stesso sistema. Non è meraviglioso? Non importa chi o cosa lui è, può ricevere la luce. Vedi quanto è generosa la luce. Agli occhi di Borè non c'è eccezione. Siamo tutti suoi figli, assolutamente ognuno di noi. Ogni creatura vivente, umana, che vive qui sulla terra, è suo figlio. Non solo gli ebrei, o i musulmani, o i cristiani, tutti. E quando una persona ebrea non costruisce il suo Masach, non viene chiamato figlio del Creatore. Solo nello Zohar possiamo leggere questo. Non negli insegnamenti ebraici tradizionali o altrove, solo nello Zohar. Una persona religiosa dice: Perbacco, Dio è così lontano, lui è così alto e io sono così piccolo. O uno dice: Non ho bisogno di questo, non devo costruire il Masach. Ovviamente credo, ma per costruire una relazione con il Creatore, costruisco il mio personale Creatore, la mia propria luce or. D'ora in più ho intenzione di usare sempre più le parole ebraiche, le le forze delle parole ebraiche e non le parole della nostra comprensione terrena, perché le parole terrene sono collegate con le storie terrene, con la cultura. Oppure lui dice: non posso aver bisogno del contatto con il Borè. Perché dovrei? Ho già un contatto con la storia, con la religione, con la Torah, con il Gesù. Certamente sappiamo che Borè è in tutti gli scritti. In ogni libro cabalistico è nella Torah. Il libro La Torah è Kabbalah. Dietro tutte quelle storie puoi trovare Borè quando lavori su te stesso. Qual è il lavoro che devi fare? Tu devi costruire il Masach. Vedila in questo modo. Tu hai una raccolta di libri originali. Hai Tes e la Torah. E tutto questo è come luce per te. Dietro ogni parola c'è Borè. Vedi il testo come l'ingrossamento della luce. Il tuo lavoro è scoprire, confrontarti con il testo leggendo molto lentamente e profondamente. E non solo quello, essere modesto e umile allo stesso tempo. Questo è l'atteggiamento di cui hai bisogno per costruire il tuo Masà, e non per qualcos'altro. Hai bisogno del Masà. Hai bisogno del confine, perché la luce, deve venire contro la superficie dei tuoi organi ricettivi. E il principio della costruzione del tuo Masach inizia quando dici: ora mi fermo con il ricevimento, faccio tzimtzum, limitazione. Questa parola tzimtzum è una parola molto molto importante. Malchut, la Malchut Kli, fu il primo che ha fatto una limitazione tzimtzum. Ci sono due limitazioni nell'insegnamento della Kabbalah. Facciamo solo temporaneamente tzimtzum, ma nello spirituale, nel superiore, c'erano due limitazioni. Avvenne uno, il primo tzimtzum, e poi un altro, il secondo tzimtzum. Tzimtzum Aleph e tzimtzum Bet. Tzimtzum Aleph era necessaria per fare le limitazioni. Questo è il primo atto. Abbiamo bisogno di tzimtzum in ogni correzione di un desiderio, il primo atto interiore. Come possiamo fare il primo tzimtzum? Quello che vi serve è l'intenzione. Può essere fatto solo per mezzo della tua intenzione. La parola ebraica per intenzione è Kavanah. Si dice nella lingua ebraica moderna che il 70% delle parole della Torah sono ancora usate. Ma questo non è vero. Forse in parole, in verità, nelle parole usano il 70% delle parole appartenenti alla lingua santa. Ma non usano le parole sante in modo santo. Cosa rende una lingua santa? La santa intenzione, Kavanah. E cos'è questa santa Kavanah? È la Kavanah per dare. È quello che loro stanno facendo, è fare uso della lingua santa per avere po' di chiacchiere. La lingua ufficiale dell'Israele non ha nulla a che fare con la lingua santa. Sebbene loro usano questo linguaggio, noi facciamo uso di un codice nella Kabbalah. Questo codice proviene da Avram e Mosè e altri cabalisti che ci hanno detto che è una lingua santa. Quindi tutte queste parole che leggiamo, il linguaggio della Kabbalah, dobbiamo leggerle con la giusta intenzione. La santa Kavanah diventa quindi una lingua santa. È la nostra intenzione. La nostra Kavanah che la rende santa. E questa Kavanah è il movimento interiore spirituale.